με ζόρλα τα, κοινωνούμε και αυτή τα φορά, δεν ξέρει. Για σε καμπανιά ρε νοτλάβει, καλά είσαι. Πάρα και δράκι όμως εκεί. Ridotto a adesso va un po' meglio, magari prova a fare un passaggio più lunghetto. Allora, ti racconto un po', questo è un cellulare che mi metto dalla donna su, Sattura al massimo, capito? E non si capisce quasi niente quello che dici. Hello, come in. Esatto, così come l'hai messo adesso ha migliorato notevolmente. Passaggio, se è risceso di segnale, è risceso a 9, perché prima mi arrivavi 9 più 30, capito? È risceso a 9 ed era chiaro, capito? E poi sul finire invece è toccato qualcosa e stava di nuovo saturando. Sì, ho aumentato un pochino la potenza dell'amplificatore sul microfono. Prova a abbassarla un pochettino allora e vediamo se ritorni come prima, che è più chiaro. Esatto, ora ho portato di esatto la potenza del microfono, la potenza del amplificatore. Sto parlando sempre alla stessa distanza. Sì, ha migliorato, però c'è un po' di saturazione ancora, non so se è la potenza però della radio. Ora ho il QRM molto alto, quindi sei sceso a livello di QRM, quindi aumenta appena appena, a vedere se lo passi. Allora ora aumenta la potenza, così la modulazione si è abbassata molto la radio, però sempre comprensibile adesso, Ok, la radio si è abbassata. Faccio una via di mezzo tra radio e amplificatore sul mic. Aumenta un altro pochettino. Un po' satura, quando porti su la potenza satura un pochettino, capito? Stanno arrivando segnali molto forti, 8.50, capito adesso? È un casino. No, la radio, Daniele, purtroppo non è molto bella, capito, da sentirsi. Magari non so se quel tipo di radio ha problemi in AM, ma dovresti chiedere a qualcuno più esperto di me chi ha trattato quel modello lì, magari sicuramente lo sa. Magari non c'era la preamplificazione e quindi era un pochettino più chiaro e c'era meno saturazione, capito? Così diciamo che faccio fatica, capisco, ma faccio fatica, devo aumentare il volume per capire quello che dici, capito? Non è pulito il microfono e quindi la radio non è chiara. Adesso ti porti dietro anche, come hai detto, ok, tipo una spifferata, capito? Rumori di audio, insomma, un pochettino fastidiosi. Sì, adesso ti ho capito, però c'è sempre, capito, il disturbo. con la radio lo Zodiac, mi puoi dare un controllo di radio che ho provato un MP4? Molto satura la radio. Guarda adesso ancora? Ancora un po'. Ah, devo abbassare. Aspetta, ho abbassato dalla radio, il Mikey Game. Ma stai uscendo anche con tanti watt? No, non c'è niente collegato. Aspetta, guarda così. Diciamo che va un po' meglio, adesso riesco a capirci di più. Ma allora è troppo amplificata, era tu? Come Luca? Ho detto troppo amplificata era. No, diciamo che troppo satura, capito? No, adesso non ti ho sentito, è arrivato il segnale fondo scala ma non la radio. Sì, adesso come hai toccato, sì, prima sentivo il fischio e la voce la sentivo proprio piccola, però poi come hai toccato sono riuscito a sentirti di più. Io adesso sto uscendo col Galaxy Saturn, ecco. Vai bene, vai molto bene. Ancora saturo sono? Sì, sicuramente devi fare qualche regolazione o non lo so se vuoi passare in FM a vedere se si sente meglio. Ma è dal microfono, aspetti, abbasso. Guarda, vedete. Ecco, abbasso un altro pochettino e forse magari riusciamo a rendere la radio migliore, un altro pochettino solo. No, adesso ho sentito il segnale ma non la radio, aumenta appena di nuovo come la prima. Così? Vado a vedere? Sì, però non so se è un problema proprio del tasto portante, perché a volte parte il segnale e la voce la sento all'improvviso, capito? Quindi non so se magari il filo, magari qualcosa. Non lo so. Vedi un po'. Posso abbassare dalla radio, così a metà il mic gain. Ecco, lascialo così, dai, fai un passaggio così, che va bene così. Prova un po', 1, 2, 3, prova, sto saturando? Sì, alla fine sì, però molto meno di prima. Adesso l'ho portato a 4 il microfono, ma il mic gain della radio. Sì, così però è meglio di tutte le altre trasmissioni, dai, che hai fatto prima, le prove di prima, forse è abbassato, attenuato un po' per quello. È a 4 e poi il microfono credo che sia a 2, aspetta un attimino che c'è il tastino della modifica dietro, dai, un po' così, com'è? Sì, va bene anche così, Perché amplifica parecchio quando li inserisco la modifica. Vedi un po' se è ancora accettabile, o se è saturo. No, così è accettabile, come l'hai messo adesso. Ok, si chiama aumentando, cosa fa? Peggiora? Adesso è a 5 il Mikey Gain. No, va bene così, va bene. Ok, va bene, sicché se te l'aumento a 7, 1, 2, 3, prova, a parte il fatto che va tipo un barattolo questi microfoni. Diciamo l'effetto è anche un po' quello, come hai descritto tu, effetto barattolo, però diciamo così come l'hai messa adesso va bene. Va bene. Era per fare una prova, stamattina ho fatto le prove con Giulio, con il suo microfono normale, e va bene, va molto bene, mi ha detto anche col microfono normale. No, era giusto per fare le prove. Cappa, bella radio, Citizen Band, AM, FM, CCB, Zodiac Model 550. È un barragione, cazzo, quanto è Saturn Echo, mamma mia. Lo so, io devo fare il compromesso con lo spazio, infatti hai visto la foto e per adesso è così, anche perché adesso tra un po' devo staccare anche come girano i muratori con la facciata, capito? E se no me lo lasciano sotto. Eh, sì, fai quello che c'è da fare, perché se no poi è un macello, passati tutti i cavi possibili, se no poi è un macello. Diciamo che già ho organizzato tutto, io lo stesso questa radio è molto grande, quindi non riesco, diciamo, anche se ci faccio una mensola eccetera, ma capito, è sempre troppo grande. Se riesco a trovare qualcosa di HF più compatto, sicuramente andrà meglio. Più piccolo, tipo il 757, quelle robe lì. Boh. Esatto, infatti stavo guardando l'857. 857, 817, sì, vanno. E vabbè, qua negli AES, meglio l'ICOM qua. Capito, poi dipende da cosa ne vuoi fare. E diciamo, tanto io lo uso per la 27, qualche DX quando c'è propagazione, capito? Però siamo sempre là, non è che poi vado oltre, magari puoi fare un po' di radioascolto con quelli. Sì, allora sì, un tipo un 757, una cosa del genere. Mi sta entrando un 706 funzionante al 100%, un tribanda, però il tribanda, se dovessi interessarti, più piccolo di quello, ma guarda, quello scoppietta forte, ha un compressore in 27 che fa paura veramente, spinge parecchio, con un processore, capito? Spinge tantissimo quando si attiva quello in 27, poi va benissimo anche nelle CNHF, VHF, va benissimo. Piccolo è come l'897, dai, però c'è il display più grande, eccetera. Sì, già ho visto su internet le caratteristiche, sì, sono, diciamo, più propenso per quel tipo di radio lì. Infatti questo, il Galaxy Saturn Echo, penso che lo darò via, insomma, lo venderò. Io ho venduto quello là, il Saturn Echo, quello 6 bande che avevo. Ecco, Cold, Watt, cioè no, i Watt erano normali, però c'era la scheda Ecco Cold, effetto elicottero, quelle robe lì, l'ho venduto, 300 euro l'ho venduto quasi subito, capito? Andava benissimo, non mi piace neanche chi va ragione a me, hai visto cosa c'ho, capito? Metto uno di quelli e ne fa 10 da Saturn Echo. Già lo sai. Questo praticamente ogni tanto lo accendo da quando l'ho aggiustato, però già, diciamo, sembra che risponda bene. L'ultima volta che lo avevo provato qua a Sacere, avevo fatto un po' di prove, regolazioni, c'era anche Claudio che mi aveva dato una mano, perché non la conoscevo bene questa radio, ma è abbastanza semplice da utilizzare. Diciamo, l'ho lasciata così come era e già sta andando bene. Caspita, sì. Vediamo un po', se ho mandato un messaggio a Giulio, se poteva entrare anche lui a darmi un controllo. Vediamo un po' se c'è. Giulio? Scusa un attimo, Antonio. Stavo dicendo, Luca, sono al telefono, non posso. Comunque ho sentito che te stava dando i controlli, te li stava dando Carlo, dai, già va bene, ok. Ok Giulio, va benissimo, grazie anche. Allora, questo è bellino, c'ha due strumentini, non so se hai visto nella foto, poi c'ha il clarifier di quelli a disco molto rudimentali, diciamo così, molto bella, è una radio, mi sembra, degli anni 80, una cosa del genere, sembra funzionare bene, arriva 7 watt di potenza massima, 7 watt e niente, c'ha le bande laterali, non c'ha l'eco, però c'ha le bande laterali e va bene, l'ho già messo in vendita. Cappa Rogero per gli amanti, veramente, perché questa qua non la trovi veramente dietro l'angolo né dietro chissà dove, questo modello qua. Lo so, già quello sicuramente già riesci a vendere. Io adesso questa così provo un po' a vedere se c'è qualcuno che può essere interessato. Audio mi Teresa che mi aveva detto di farglielo sapere, vedo un po'. Magari è interessato lui, o un altro suo vecchio proprietario, boh, chiedi un po'. E io sinceramente qua non vedo niente, ma niente, niente, guarda, mando tutto fuori, perché qua guarda ci attaccano le cazzate anche. C'è una scheggettina lì, dopo che l'hanno vista, stravista 50 milioni di volte, gliela dai, c'è questa scheggettina qui, porca miseria. Capito? Da allora ho deciso sempre di mandare fuori, con tanto di video, tanto di foto, tanto di prove, però 100.000 volte ti fanno i complimenti perché è tutto funzionante come deve essere, capito? Invece no, tirami via 100 euro, non 10, no, 20, no, 100 euro, 50 euro, ma quella è una radio che si vale così, ma quella... va bene, da allora sempre fuori, via. Ho capito, capito, sì, beh, certo, qua con la scusa che sei locale magari ci stanno a vedere tutto. Infatti anche il 140 l'ho messo su internet, funziona bene, qualsiasi prova, qualsiasi video, io mando tutto, capito, non voglio balle con nessuno. Saturneco, quello lì ancora, sta ancora saltando dall'allegria, quello che gli ho mandato il mio, il Colt, Saturneco Colt. Bisogna mettere la cosa come funziona, capito? E poi c'ho l'FRG 8008, anche quello l'ho già messo in vendita, anche quello bellissimo, bellissimo ricevitore, funziona benissimo. Ti ho mandato la foto del Galaxy. Un ricevitore spettacolare, capo. Adesso ho inserito l'eco, sta funzionando Luca, questo è l'eco di questa radio. Sì, va molto bene, va molto bene quell'eco. Ok, però lo levo perché magari sono comprensibile senza l'eco. Ma non dà fastidio. Il bip lo stesso, già sta uscendo. A voglia. No, già sta andando, sta funzionando perfettamente. E niente, di watt, questo esce con 8-10 watt, come mi sa in AM. Poi è ben tenuto anche, vabbè, se lo devi vendere poi mi fai sapere. C'avevo un paio di persone che lo stavano cercando, capito? Un paio di persone che l'hanno cercato. Un attimo, il telefono. Non ti preoccupare, rispondi pure. Hola, sono Carlos, mi ascolta? Carlo, ci sei ancora? Sì, aspetta un attimo Luca che c'è un amico al telefono. Fai, ok. Prova Luca, ci sei? Luca... Buonasera Giulio, ci sei ancora? Sovramodulati. Tutto bene? Tutto bene, insomma. Lu, tu sai come ti gioco, sempre a dolori, sto aspettando che mi chiamino, ma sempre con quei dolori, ho preso l'occhi adesso un pochettino perché sono sempre a dolori, una cosa guarda che non si crede. E dov'è? Sono vista da Londorino, per il naso. E glielo dico, non posso stare a forza di spray, a parte che mi è una spesa pesante, cioè costa 22 euro l'uno, ne ho già comprato due, castellano lo ricalcono. Oh, ho capito, adesso vediamo, perché sto respirando di nuovo male, mi si chiude, io ho bisogno di uno spray, capito? Uno spray per il naso, ma quelli fanno male, tipo Rinazina e quant'altro. Dai, chiudo questo qua, ok. Capito già. Ma tu cosa c'hai? Il setto nasale che è spostato o che cosa? Allora, i turbinati, poi i polipi e il setto del deviato. Allora i polipi vogliono tutti, o li bruciano, non lo so come li fanno, prima mio padre li avevano bruciati. Che me li brucino già, sto provando già i coperchi, quelli che mi hai dato tu, però i nuovi li ho messi nel iPhone, ma nelle... sono uguali. Tu sai che metto questi qua, sono più carini, anche se sono un po' graffiati, che cosa se ne frega. Sì, sono uguali già, ma più grandi sono. Sono uguali. Boh. Stessa grandezza, non boh, forse no. Quelli del 3009, ma quelli dell'iPhone. Non so se sono uguali, sai il controllo. Ma il iPhone mi pare che sia più grande. No, eppure ti dico di no. Lascia vedere. Vediamo. No, sono uguali. Sono uguali, stessa forma, stessa... Sono spiccicati. Perciò vanno bene. Perché questi qua sono lisci, capito già. Cioè lucidi, là, non lisci. Lascia vedere. Sembra che... Vedi? Forse no. Forse sì, forse no. Adesso provo a mettergli le pitti, vediamo. Prenditi una vernice opaca e bomboletta con 3 euro e te li vai. Se li fai bene come si deve, ce l'hai nulla. Ehi già, ma sono graffiati questi, capito? Sono graffiati. Non combaciano, come mai? Non so, dovrei mettere l'alto, forse mi serve, perché se è poco poco più largo, qua rimane poco poco più alto. Sono diversi. Ma c'è bene qua, ma come va? Qua so sì. Qua so sì. Come c'è benissimo. Ma che buchi delle viti? Sì, sono uguali già. Solo che quelli là, vedi. Allora. E poco poco spostati sono i buchi delle viti. Ma no, peccato. Le guiti combaciano, tu devi mandare poco poco avanti, vabbè quello combacia. E devi andare a fare la mano di traverso. Che è avanti, chi è questo fischio? Buonasera, signor Bianca, come sente questa radio? Sei basso di radio, Carlo, controlla il macchinino. Adesso come si sente? Adesso sei perfetto. Allora vedi, l'eco si sente. Ma là sei a casa. Gala di passata al becco. Vabbè. Cappa, sì, va bene. Adesso lo tolgo l'eco, dai. Sì, va bene. Ci ha inserito solo il bip. Sì, va benissimo. Oia. Fa male l'anca. L'anca, dai. Oggi è proprio la giornataccia, caro. Buonasera comunque. Buonasera Gianni e Luca, mi sa. Avanti lui. Ciao Carlo, buonasera anche a te. E io mi trovando questa radio perché era da un po' che non l'accendevo e niente, già sta andando. Come ti sembra già? No, va bene, sia di segnale che di radio. La radio è normale, però quel microfono la rende presente come radio. Questo è il microfono, quello che mi avevi dato tu, dai. Io, va bene, ne ho un altro amplificato anche. anzi ne ho due, uno devo fare gli attacchi, Luca, per il Galaxy, ma per il coso, per il 3009 devo fare gli attacchi. Quando vuoi portamelo, te lo faccio. Tanto è lo stesso del Typhoon, vero, l'attacco? Sì. Spero un attimino al telefono. Luca, tu come mi senti con questo Galaxy? Bene, bene. Questo era quello che aveva Gianni. Io non so, me l'ha detto, però sembra che sta scaldando troppo. Sta scaldando troppo. Forse troppi watt. Troppi watt. Questa penso che adesso stia uscendo con 8, un 8 watt, qualcosa del genere. Aspetta telefono un attimo. Mi devo assentare un attimo che è venuta gente. Va bene Gianni, già ci sentiamo. Ecco qua, sono qua. C'è nessuno? Gianni, Carlo, ci siete? Luca sta richiamando. Eia. Dimmi che ero nell'altra stanza. Sei in basso di radio, aumenta un po'. Fai un passaggio più lungo. No, tu di dove sei in radio, sei in basso. La radio mi sembra un po' bassa, La tua è la mia o la tua? Ma hai cambiato microfono. No, la tua è bassa la radio. La mia è a posto. Qua non ho toccato niente, però sempre così. Ma ce la radio bassa. Aspetta che controllo, a volte inavvertitamente tone questo RF gain, è al massimo mix gain, al massimo come mi avevano detto, non lo so, vedi, così sto andando meglio. Non sei alto, perché se entra già devo abbassare il volume. Non te lo so dire, non te lo so dire. Prova a cacciare l'altra, quella che usi sempre. Stavo provando questa e niente, evidentemente adesso con l'eco mi senti meglio. È più alta ma c'è sempre basso, per il volume che ho è bassa la radio, cioè il volume è abbastanza alto, capito? Ho capito, adesso accendo l'altra radio, dai, vediamo se mi senti meglio così. Prova. Luca, va meglio adesso? Prova. 1, 2, 3, prova. Adesso sì. Adesso sto usando la mia. Adesso è meglio, l'altra non è più bassa. Eppure con questa sto uscendo con pochi watt. Aspetta che spengo l'altra, se no mi fischia. Via. Ma io come sta andando in radio, va bene. Qua ti sento anche molto meglio. Sembra forse di fare qualche regolazione, non lo so. Lea! Cosa stai facendo adesso? La zanna sta leccando, lascia la zanna. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Hola? Avanti Gianni. Ehi dai, ce ne sono andati adesso, dai, sono venuti a prenderci un caffè degli amici. E niente, ora se ne sono andati via, adesso riaccendo, vediamo un po' se c'è qualcuno ancora. C'era Luca, prima stavamo facendo delle prove qui, stavo resettando un computer di mio figlio, perché siccome gliel'ho preso uno nuovo e quindi questo vecchio che aveva gliel'ho resettato, capito, ma per installare il programma nuovo ci sta impiegando tutta la sera. È lento, ma l'avevi accennato che avevi trovato quello lì in offerta, al 50% mi pare, vero? Sì, esatto, da, come si chiama, da Euronix. KK, vabbè, hai fatto bene a prenderglielo, se era conveniente e gli serviva. Io un po' l'ho mollato il computer, prima ero vissato, adesso un po' l'ho mollato, dai. Sto usando più il telefonino, perché faccio più cose, capito? Faccio più cose col telefono, dai, metto a cantare anche. Lo so, col telefonino ormai si fa tutto. Io lo stesso, infatti, quello che ho di telefono l'ho preso, diciamo, 2 anni fa, ma l'ho dovuto cambiare dopo un anno perché mi aveva creato un problema che non prendeva gli aggiornamenti. Mi avevano venduto un telefono per il mercato tedesco, per cui il telefono era in garanzia e praticamente sarei dovuto andare in Germania per fare gli aggiornamenti del sistema operativo, ho capito. E ho detto, com'è possibile? E sicuramente sfuggite ai controlli, questo qua era del brand tedesco e l'hanno venduto in Italia, perché l'avevo preso su internet, capito? E però essendo in garanzia me l'hanno sostituito e mi hanno dato, non c'era più quel modello, no, le avevano tutti i dati, e allora mi avevano dato il Galaxy Note 20 Plus, avevo aggiunto 200 euro, capito? Quello me l'avevano valutato 500, capito? E quindi mi avevo preso questo Note 20 Plus 5G che ha anche il pennino, capito? Quindi togli la pennina, prendi appunti, fai di tutto e di più. Cappa, è un signor telefono. Sì, quando succedono queste cose ti rompono le scatole. Io invece ho preso un telefono, da quando l'ho preso, l'ho pagato anche un po' di soldi, quando l'ho preso ha cominciato, cadeva la linea, poi praticamente mentre parlavi andava da solo in pausa, praticamente non mi sentivano più, sentivo allora e loro sentivano a me, poi ho capito che entrava in pausa, allora che io ho preso, perché prima me l'appoggiavo all'orecchio, ma magari sono io, e lo usavo come il microfono, lo mettevo davanti e lo faceva lo stesso, allora l'ho portato, l'hanno mandato ad aggiustare, era in garanzia, l'hanno mandato ad aggiustare, il primo periodo sembrava che andasse tutto bene, poi ha ricominciato a farlo, e allora quello lì l'avevo regalato a mio figlio, e mio figlio mi ha detto, guarda, a me papà non mi fa nulla di queste cose, forse sei tu che magari lo urti, lo fai, no, assolutamente, beh, lo sai che anche questo nuovo che ho preso mi fa la stessa cosa. E tu, non lo so, allora è la mano deve essere già. Ma asco, io di telefono non ne ho avuto uno, ne ho avuto tantissimi, addirittura me lo metto davanti, come faccio a urtare i tasti, a cosa? Vabbè che questo telefono è tutto particolare, se tu prendi praticamente primi il tasto del volume per alzarlo e per abbassarlo insieme, si forma quella voce veloce, praticamente parla così. Vuol dire che c'è qualche funzione particolare. No, io diciamo che non ho avuto mai problemi del genere. Tutti i telefoni che ho avuto li ho portati. Prima avevo un Note 5 e l'ho tenuto lo stesso, sin che poi non si aggiornava più, era diventato vecchio, ma l'ho tenuto a roba di 6 anni e passa. Praticamente poi un mio collega dice, stava cercando un telefonino con lo schermo grande per mettere qualche giochino per il figlio, eccetera, allora l'avevo dato per 50 euro, capito? Era nuovo, carica batterie e tutto quanto, però non prendeva più gli aggiornamenti, a lui interessava giusto per qualche giochino e allora l'avevo fatto fuori così. Vabbè, almeno qualcosa l'hai ritirata, perché tanto poi prima li prendevano questi telefoni, compravi il nuovo e ti ritiravano l'altro, adesso mi sa che non lo fanno più, vero? La rotta, il telefono a seconda mano non lo vendono più. No, ormai non te li prendono più, a meno che non sia un telefono che è ancora in garanzia, che magari tu lo vuoi cambiare, allora sì, anche se non ha nessun problema, però se è in garanzia, diciamo, loro lo possono ritirare in effetti, se ha intenzione di prendere per il modello successivo, quindi devi fare l'acquisto e ti fanno la valutazione su quello, poi loro quello lo rivendono, lo resettano e lo rivendono, capito, come quei telefoni che magari sono tornati in fabbrica, eccetera, capito, a un prezzo inferiore, ma comunque a loro conviene sempre. Certo. Prima io mi ricordo diversi telefoni li avevo comprati e ho versato l'altro, e ne ho avuto telefoni di tutti i tipi, guarda. Ho avuto dalla cabina telefonica al telefono più piccolino, a quelli che stavano, quando stavano uscendo quelli piccoli, ho avuto i Motorola, quelli piccoli, non lo StarTAC, ma quello più piccolo, che praticamente era bellissimo quello lì. Poi mi è caduto nel bagno, ce l'avevo in tasca, mi è caduto, mi è scivolato mentre facevo la pipì e non l'ho manco toccato. Lo immagino. i telefoni sono così, finché vanno bene, capito, ce li teniamo, quando iniziano a creare problemi allora è arrivato il momento di cambiarli. Io adesso questo che ho ce l'ho da un anno e qualche mese, però ancora è nuovo e va bene, capito, e non ci sto neanche pensando. E come hai detto tu, col telefonino faccio tutto. Io adesso ho preso l'Oppo, mi hanno detto che era molto buono come telefono, ho preso quello diciamo il migliore che c'era, però telefono mia sorella a Portotone, si dice cavolo già 50 volte cade la linea, ma come si fa a telefonare a te, mi sgrida. Poi telefono gli amici, mamma mia che sul telefono, gira gira ti chiamo a casa, tutti quanti mi dicono cosa, mi sta dando un fastidio qua, non ci credo. Magari dipende dall'operatore, e quale operatore usi? Adesso io ho l'Ecamobile, però anche lo facevo anche con gli altri operatori, questo l'Ecamobile l'ho messo perché con gli altri operatori sia Vodafone che team lo faceva. Allora ho provato tutte, Carlo, ho cambiato operatore, l'ho mandato a aggiustare e me l'hanno ritornato com'era, cioè il MU. Io a me mi stava dicendo questo amico che sicuramente, come hanno messo quel ripetitore del 5G, hanno praticamente rovinato la zona, diciamo, e danno problemi. Ah, guarda, io allora a casa mio figlio usa Kena Mobile, mia moglie Kena Mobile, che praticamente si appoggia a Team, no? E funziona benissimo. Io invece ho Wind, avevo anche io Kena Mobile, ma me ne sono andato perché, scusa già, mi hanno fatto un'offerta, me ne sono passato a Wind per 5,99 e ne pagavo 6,99 perché ero stato già cliente loro, quindi mi hanno fatto l'offerta, ritorna con noi, eccetera. Io volevo ritornare perché praticamente con Wind hai la possibilità di navigare in 5G e quindi poi ho fatto il passaggio a 5G e mi costa 10,99 adesso, però ho praticamente chiamate illimitate, sms illimitati, ho 100 GB tutti in 5G ed è una scheggia navigando su internet, è velocissimo. Ma anche il mio veloce, tutto quanto quello che vuoi, però sempre questo problema esiste, cioè a volte mi ascoltano robotizzato e a volte praticamente cade la linea completamente, non si capisce. Allora io prima l'avevo presa con Vodafone, gli avevo telefonato, ho detto che stava andando male la linea, questo e quell'altro, mi hanno fatto fare 1000 procedimenti per metterlo a posto e niente da fare, Carlo, niente da fare, sempre alla solita maniera, mi hanno mandato anche i tecnici a casa, cioè di tutto e di più per vedere se dipendeva dalla wifi, ma c'è una cosa che quando lo usa in macchina questi problemi non me li dà, ho notato quello. E non so che dirti, cioè io non ho mai avuto problemi del genere, come operatore ne ho cambiato, avevo avuto anche un periodo Iliad per un annetto buono, però diciamo c'era qualche zona che non era coperta bene, tipo la zona dell'aeroporto, secondo dove andavi non era coperto bene e quindi me ne ero andato per quello. O avevo avuto Team che andava bene, però era diventato caro e quindi andato via. Li ho provati quasi tutti e Vodafone lo stesso, l'avevo provato, Vodafone andava bene, però troppo caro e gli altri operatori offrivano la metà e ho detto chi se ne frega. E poi mi sono trovato bene con Kena, capito? Diciamo mia moglie ce l'ha ancora e si riceve bene, dai, io la chiamo da Wind e la sento bene, mio figlio idem e anche mia figlia prima che partisse aveva Kena, adesso quando ritorna non so se quella scheda gli funziona ancora, se no gliene rifarò un'altra nuova, capito? Perché quella per l'estero non va bene? No, non va bene. Praticamente lei adesso sta usando una scheda che ha comprato lì in Australia, capito? È di un operatore low cost come può essere Kena oppure Odi, Vodafone, quelle cose là. Ho capito. E beh, si trova bene. Il telefono gli funziona bene, usa WhatsApp anche quando non ha il wifi, no? Che è fuori casa, eccetera, e paga tipo $10 australiani al mese, che sono circa 7,90 diciamo in euro, e equivalgono a 7,90, una cosa del genere. Ogni posto c'ha il suo di operatore, è vero. E comunque questo telefono è nuovo, quello che ho io adesso, quell'Oppo, l'ho preso 4 mesi fa, nuovo, capito? Proprio nuovo. Eppure fa la stessa cosa. Infatti mi hanno consigliato di chiamare quello di Striscia la Notizia, di farlo venire qua con l'apparecchio per misurare se c'è qualche cosa che disturba qua. Non lo so, io fossi in te farei un altro tentativo e farei un cambio di operatore, e tanto ce ne sono di offerte buone. Se hai la possibilità, o te ne passi a Kena, che si appoggia a Tim e si sente bene un po' dappertutto, oppure puoi provare o Iliad oppure anche o di Vodafone, quegli operatori lì che insomma sono tutti low cost e di contratto non ti fanno pagare tanto. Sì, ma io contratto non è facile, io pago dal tabacchino e pago, capito? Non ne ho mai voluto di contratto, non mi è mai piaciuto, ce l'avevo solo con la 3 il contratto, perché avevo preso il telefono e in più il pacchetto, dai, avevo preso un bel telefono e niente, avevo il contratto, mi toglievano praticamente i soldi ogni mese, capito? Capitan Ventosa. Ehi, a Capitan Ventosa, ciao Tony. Ciao anche a Carlo. Ciao, buonasera Tony. Buonasera anche a te. Tutto bene? Sì, comunque non è roba di questione, Carlo, di Gianni, non è questione di compagnia. È questione che nel suo palazzo si è dedotto che qualcheduno avrà una fregnaccia, non so, un amplificatore d'antenna, potrebbe essere anche un antifurto, che manda spurie e va in conflitto con la linea telefonica che ha Gianni. Tant'è vero che molte volte manca, sparisce, ci hai detto, l'unica che aveva chiamare Capitan Ventosa e risolve il problema. Può essere, infatti me lo stavo accennando poco fa, già può essere anche qualcosa del genere, può essere anche qualche scheda di telecomando, di allarme, qualcosa del genere che lì è attiva, capito, e quindi gli crea questi problemi qua. E poi qualche amplificatore di TV che molti se lo mettono in casa e creano disturbi. Gianni, ripeti. Eia, con che apparato stai uscendo? Stai uscendo ben bene di radio. Con che apparato stai uscendo? Il Presidente che ho toccato ieri e non ho più toccato, e sempre con quello, Presidente. Ma lo dimmi isso, che c'è bene. È una bella radio veramente. Ma è che ormai sto usando già. E poi qualche giorno rimetto il tardi a vedere cosa succede. Guarda, sembra che stai usando un amplificato. Veramente è bella la radio. Ma è che normale, su originale, c'è scritto Presidente anche qua. Andrei, vai, sto parlando anche un po' distante, 20 cm dalla bocca col microfono. Anche io sono col microfono normale, bene mi sento. Chiaro, perfetto, limito il recuaro. Questo qua è un microfono che avevo fatto io, una capsula che ho messo io, ho cambiato il filo perché gli ho messo quello morbido di modo che possa tirarlo bene, l'altro era la tetaru, quello che c'era. Insomma, l'ho un po' fatto io, là. Scusate, il telefono un secondo. Cappa, se poi non ti serve a te quel mic che c'è da là a me. Cappa, avanti Carlo. No, una bella radio, quella di Tonino, adesso sta uscendo veramente bene. Poi lui ha anche un timbro di voce bello tosto, capito? Però la radio è pulita, capito? Bella forte, chiara e limpida. Segnale qua mi arriva a bomba. Sì, infatti quello gli ho detto di non venderlo, perché li sta venendo tutti e gli ho detto quello lasciatelo, perché è l'unico che esce bene. Poi è il Presidente, quello lì, un Presidente, stazione base. Quindi è una bella radio allora. Io quello piccolino che uso in macchina, che usavo, non lo sto più usando, ma in questi giorni se ho tempo lo piazzo, ci impiego un attimo tanto. È un Presidente, però ha solo AM, FM, non ha le bande. comandi laterali, capito? E cosa te ne frega, tanto tu parli in AM, la gente è sempre qua, sul canale 10, quando c'è pure. Sì, infatti, non è che già io l'ho preso per quello, per fare quattro chiacchiere, a volte andando, tornando dal lavoro, a volte c'è qualcuno e ti fai quelle quattro chiacchiere, capito? Solo per quello, però ci metto il 747, in questi giorni che sono a casa, se ho tempo scendo e come mi gira, penso di riuscire a fare tutto abbastanza in fretta. Mi Toni non ne ha uno, dici se te lo vende. Che di lineare? 747. Io ce l'ho qua, però lo voglio togliere perché qua mi limita a uscire con pochi watt solamente, se non voglio creare problemi, capito? Lo so, sono scocciature. Quelle cose le ho passate anch'io, ma era per colpa dell'antenna che era tutta fradicia. Mi hanno mandato anche il tecnico dal condominio, ha voluto vedere i watt che usavo, naturalmente ho fatto avere l'apparecchio omologato che ci va con 4 watt, e ho detto non è possibile che disturbi. Con 4 watt non puoi disturbare. È salito sul tetto, ha toccato l'antenna e è sceso un pezzo. Dice per forza che prendevano, perché questa antenna qua prende tutte le spurie, adesso c'ha la scatola rotta, vuole cambiare, insomma, ha fatto un rapportino, l'ha portato al coso, al capocondominio, e hanno cambiato l'antenna e dal giorno mi hanno più rotto le palle. Dottor Nado. Sì, Tony. Purtroppo è così, nel condominio devi a volte fare un po' di compromessi, capito? Un po' una rottura di balle. Io ho dovuto raccogliere tutte le firme di tutti i condomini, perché il capocondominio ha detto sì, io ti autorizzo, però dopo che vedo tutte le firme dei condomini ne sono d'accordo. Io non devo farlo questa